Io mi muovo, tu resta sempre in un punto. Forse. Ancora esploso. Mi parlate di legami d'amore, Eugenie? Certo, certo. Non piano piano, cioè, il piano di prima. Con tale sentimento non entri mai nel vostro cuore, se volete essere le felici. Ore si scardinano. E cos'è l'amore? Forse un cuore esploso tra i sembra forse. Chiaro. E le mani intrecciate. Non lo si può considerare altro l'effetto risultante delle qualità. Le ore si scardinano. Forse è un po' esploso. Mi parlate di legami d'amore, Eugenie. Mi parlate di legami. Possiate non conoscerli mai. Un tale sentimento non entri. Possiate non conoscerli mai. Un tale sentimento non entri mai nel vostro cuore se volete essere. Cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Mi sembra chiaro. Mi sembra chiaro che non si può considerare altro che l'effetto delle qualità dell'oggetto su di noi. Certi effetti ci trasportano. Certi effetti ci trasportano, ci infiammano. Se noi possediamo quell'oggetto, siamo contenti. Se non è possibile averlo. Se non è possibile averlo. Piombiamo nella disperazione. Ma qual è? Ma qual è la base di questo sentimento? La base di questo sentimento. Qual è? Qual è la base di questo sentimento? Di questo sentimento. Il desiderio. Quali le conseguenze? Il desiderio. La famiglia. Quale? Salima si cinque di gomma. La sua salima rua si stette. Mi parlate di legami d'amore. Questa roba. Mi parlate di legami d'amore. Le ore si scardinano. Fammela sapere. Forse adesso è. Salima si cinque di gomma. Salima due, si stetti a sempre cinque. Se le mani intrecciate. Questa roba qui. Sì. Devo registrare anche questo. Sì. Ok. Le ore si scardinano. Forse adesso è. Salima si cinque di gomma. Salima due, si stetti a sempre cinque. Se le mani intrecciate. Questa roba qui. Sì. Devo registrare anche questo. Sì. Ok. Le ore si scardinano. Forse. Adesso è. Salima si cinque di gomma. Salima due, si stetti a sempre di cinque. Se le mani intrecciate. Questa roba qui. Sì. Devo registrare anche questo. Sì. Ok. Le ore si scardinano. Forse. Adesso è. Salima si cinque di gomma. Salima due, si stetti a sempre di cinque. Questa roba qui. Sì. Devo registrare anche questo. Sì. Ok. Le ore si scardinano. Forse. Adesso è. Salima si cinque di gomma. Salima due, si stetti a sempre di cinque. Se le mani intrecciate. Questa roba qui. Sì. Si scardinano. Le ore si scardinano. Forse è un cuore esploso. Il cuore esplode, le mani intrecciate. E forse le mani intrecciate. Le ore si scardinano. Le ore si scardinano. Forse un cuore esplode. Forse un cuore esplode. Tra il forse le mani intrecciate. Le ore si scardinano. Si scardinano. Aug! Possiate non conoscere. Le ore si scardinano. Tale sentimento non è forse un cuore esploso. Se volete essere felici. Cos'è l'amore? Le ore. Mi sembra chiaro che non lo si può considerare altro che l'effetto risultante delle qualità di un bell'oggetto su di noi. Forse. Certi effetti ci trasportano, ci infiammano. Forse. Se noi possediamo quell'oggetto, siamo contenti. Esplosa. Se non è possibile averlo, piombiamo nella disperazione. Ma qual è la base di questo sentimento? Le ore si scardano. Il desiderio. Le ore si scardano. Quali le conseguenze? Forse le mani intrecciate. La follia. Esploso fra forse le mani intrecciate. Le ore si scardinano. Forse un cuore esploso fra i forse e le mani intrecciate. Esploso. Si scardinano. Le ore si scardinano. Forse il cuore esploso, fra i forse le mani intrecciate. Le ore si scardinano. Forse. A vedere di perdere il senso del tempo. Le ore. Intense, anche contrastanti, si sovrappongono una e cambiano la situazione. Si sente confuso. Con un cuore sicuro. Avere difficoltà a capire dove si è e cosa si sta facendo. A volte non lo si capisce proprio. Perché le difficoltà di giudizio può essere modificata. Considerate allora può diventare pericoloso fare anche una cosa banale come attraversare la strada. L'LSD può far salire la tempesta nel corpo, aumenta la pressione del sangue, provoca tachicardia e dà un senso di vertigine. Gli effetti dell'acido cambiano, di molto, a seconda del posto in cui ci si trova e di come stanno corpo, cuore, mente, in quel particolare. Può capitare, facilmente, che anche una lontana traccia di inquietudine, un posto sbagliato, lo facciano cambiare la direzione del viaggio. In particolare, possono verificare stati di ansia acuta, reazioni di panico, un'insolata. Scatta la paura! Le ore Salire la tempesta grande cosa. Fai forte già. A questa reazione del sangue, provoca la cardia e dà un stress. Le ore si scardinano, ardinano. Le stress si scardinano, cambiano. Sì, sì. Molto. Esplosa fai forte. E il come sta il mio corpo, le ore, mente, scardino, il tuo prato di mano, esploso, fai forza, le mani, può capitare, ma tu mente che anche una lontana tratta di quello che un posto sbagliato lo facciano cambiare la vita. Forse un cuore esploso, fai foroso, fai forreggiate. Ma tu le ore, non possono per ricordare stati di ansia, ansia acuta. Le ore spesso, forse, un cuore, esploso, fai forse, mani intrecciate. Catta la paura! Le ore si scardino, le forse un cuore esploso, esploso. Esploso, fai forse, le mani intrecciate. Le ore si scardino, partiranno. Forse mi cuore esploso, sovrai forse, intrecciate. Le ore si scardino. Le ore. Forse. Un cuore esploso. Le ore. Si scarica. Mi sembra che non si... Lo si fa. Le ore si forse un cuore esploso tra i fuori. Thank you. Thank you.